Cari amici di San Francesco, prima di tutto credo interpretare la volontà di voi tutti se ringrazio i due professori, il professor Leonardi qui a sinistra, il professor Manzelli che purtroppo non ha potuto venire di persona, per i loro validi contributi. E mi è parso particolarmente importante il tentativo di inserire San Francesco e il suo spirito nell'epoca e per l'esattezza, per quanto riguarda l'intervento del professor Leonardi nella chiesa di Gregorio VII. E quindi, siccome io personalmente almeno non conosco un altro tentativo di questo genere, l'ho molto apprezzato. Professor Manzelli ha fatto ciò che altri hanno tentato di fare, di inserire San Francesco nei movimenti ereticali. Ricorderei in questo contesto un contributo del compianto padre Caetano Esser, il quale nel 58, mi pare, sull'Archivio Franciscano Historicum ha pubblicato uno studio in cui ha dimostrato questa contrapposizione di San Francesco al movimento dei Cateri. E allo stesso tempo pubblicò anche uno studio San Francesco e i movimenti religiosi del Medioevo. Quindi io vorrei dirvi senz'altro che vale la pena magari di partire da questa constatazione, e eventualmente abbiamo il professor Leonardi qui accanto, potrà rispondere ad ulteriori domande in quel senso. Magari, e se per dare un po' di coraggio mi sia permesso di dirle di farle una domanda. Io personalmente ho studiato un altro movimento dell'epoca, l'eremitismo, e l'influsso del movimento eremiticale su San Francesco. E forse, se lei mi permette, tanta amicizia, di dirle che questa sottolineatura, sia sua come anche il professor Manzelli, che San Francesco è andato verso il mondo, si è inserito nel mondo, non mi sembra del tutto vero, perché San Francesco rimase spiritualmente romita, almeno nel suo anelito, tanto vero che per una buona parte dell'anno si è ritirato nei luoghi di assoluta solitudine. Pensiamo che lei ha giustamente messo l'accento sull'esperienza della stigmatizzazione sulla Verna, e certamente la Verna allora almeno fu un luogo di solitudine. Poi San Francesco ha scritto una regoletta per i romitori, e quindi anche in questo contesto forse poteva essere ricordata, siccome lei parlava per San Francesco in quanto risulta dai suoi scritti. E ricorderei ancora in uno dei capitoli della regola non bollata, San Francesco enumera le tre categorie dei frati di allora. Non bisogna ispirarsi alla traduzione italiana, che non è sempre purtroppo fedele. Allora San Francesco distingue tra fratres predicatores, fratres oratores, che non va tradotto con fratelli che si esercitano nell'oratoria, ma appunto fratelli dedicati alla vita eremitica, e frates laboratores, coloro che in dipendenza sotto altri lavoravano, soprattutto lavori manuali. Scusi questa mia domanda, ma avete fatto radio ad altri. Devo dire qualcosa sì, subito? Devo... Non è una domanda, la domanda mi pare è una domanda assolutamente pertinente. Quello dell'eremitismo è un problema, del resto, che si presenta non solo a Francesco, ma è un problema che pare essere presente in tutta la tradizione cristiana. Certamente nei secoli che vanno dal XI al XIII, l'eremitismo è stato una soluzione alla vita cristiana molto importante. Io credo che questo sia dovuto anche al fatto, alla grande crisi degli ordini monastici. I benedettini, in sostanza, nonostante le riforme dei secoli XI e XII, cistercensi, remonstratensi e gli altri ordini che sono rampollati dell'ordine benedettino, come dovreste ricordare anche Mansavi stamattina, io sono perfettamente d'accordo, un monachesimo tradizionale non sembra più essere la via della perfezione, fanno non potersi più riproporre come l'unico modello. Ma come si riforma il monachesimo? Il monachesimo si riforma continuamente attraverso gli eremiti. Sono Bernardo è sempre tentato di fare l'eremita. Perché questo? Beh, perché in sostanza l'esempio di Cristo stesso nei Vangeli, Cristo che sale sulla montagna, quindi l'eremitismo, l'isolamento dalla storia, è dialettico con la presenza storica. Il cristiano è perfetto, è sempre presente nella storia, ma è sempre anche come al di fuori della storia, in qualche modo appunto la supera la storia, la invera scatologicamente. Quindi da questo punto di vista anche Francesco, che certamente si pone come un seguace di Cristo, come la sua dimensione eremitica, appunto la Verna, come lo ricordava, non si può dimenticare, si ritirava sulle montagne. Io però non credo che la dimensione eremitica in Francesco sia quella che può qualificare ciò che Francesco rappresenta di nuovo rispetto al suo tempo. Questo non mi pare. Cioè, cosa c'è in Francesco, lui faceva, diciamo così, il mercante, il figlio di mercante, e faceva poi il cavaliere, l'ideale del cavaliere, combattere per la giustizia, combattere per il suo comune, per il buon diritto del suo comune. La conversione non lo porta in fondo a lasciare stabilmente la città e a concepire il suo ritirarsi sul monte, a pregare, vedere Dio, a gustare Dio, a sperimentare Dio come una condizione stabile, come la condizione del perfetto. Mi pare che come Cristo, certo, come Cristo che volentieri va dal Padre e fa le cose del Padre, la sua condizione come quella di Cristo sia di stare in mezzo agli uomini, perciò quello che definisce, secondo me, appunto qui, se ti fossi preso a Manselli, forse potremmo litigare un po', ora, perché nella sua relazione, in parte di tutto l'altro, che l'amore da Teresa Francesco, l'amore degli uomini, e qui non ne sono convinto. Io sono convinto che ciò che Teresa Francesco e questa sua capacità, scendendo dall'eremitorio, scendendo dall'eremitaggio periodico, di stare con gli uomini e mostrare agli uomini questa voce del Dio sofferente, Dio che muore, no? Dio che muore come nel suo dolore, no? Capacità di mostrare un Dio umanissimo che non è il Dio che si vede nei romitori, ma il Dio che si vede ogni giorno, Cristo si è incarnato, quindi è in mezzo a noi, questo Cristo che soffre come tutti gli altri, questo è Dio. Chi vede me, vede il Padre, quindi si vede il San Giovanni, no? Chi vede me, vede il Padre. Chi vede il vero cristiano, vede il Padre. Questo è il mistero del Cristo, cioè del Verbo incarnato. Chi vede il vero cristiano vede il Padre che sta in cielo. È questo che Francesco ha reso comprensibile ai suoi contemporanei. Chi vedeva lui vedeva il Padre che era in cieco. E come vedeva lui? Vedeva un uomo come tutti gli altri che soffriva perché era cieco, perché era povero, perché non mangiava, perché... Ecco, quindi certamente il remitorio, l'eremitaggio è una componente che lui prevede anche nella regola, come lei giustamente osservava, ma mi pare che resti il fatto che ciò che è specifico di lui non sia l'eremitismo. Dico, evidentemente l'interpretazione varia da autore a autore, nessuno deve meravigliarsi. Lo vediamo anche tra gli esegeti, abbiamo uno in prima fila che potrebbe riferirci in merito. Comunque mi sia permesso di insistere un pochetto perché c'è un influsso anche pratico evidentemente sulla vita francescana. Mi pare innanzitutto vede dalle fonti e soprattutto anonime, vediamo il grande peso della componente eremitica nel fatto che, prima di tutto, i primi luoghi, a partire del 1214 circa, non erano conventus, erano eremitoria, e quindi era per San Francesco il modello di vita francescana. Era la vita vissuta al romitorio di Santa Maria alla Porziuncola, cioè un intero capitolo che parla chiaramente in chiave eremitica, sono i termini che sono lì. Se in questo brano, dal punto di vista storico, può essere accettato come espressione valida della volontà di San Francesco, mi pare che non ci sia possibilità di dubbio. E forse in un secondo tempo, attraverso l'ingrandimento di questi luoghi, che magari è venuto fuori più chiaramente anche questo impegno apostolico. Mentre all'inizio mi pare che sia in dubbio, prima di tutto anche San Francesco attraverso il suo processo di conversione ha già vissuto la vita eremitica, si è ritirato in luoghi solitari e perfino si è nascosto in una fossa davanti a San Francesco e davanti al suo padre. E quindi è come un filo conduttore, prima di morire, San Francesco che cosa dice secondo Tommaso Celano? Che cosa vuole? Ritornare all'assistenza ai lebbrosi. Voglio vivere in luoghi il più solitari possibili. Questo di fronte alla morte ritornano alla mente proprio gli elementi più determinanti di una vita. Comunque io voglio dire solo una piccola parola. Io credo che c'è una evoluzione della vita di Francesco come c'è un'evoluzione della vita di ogni uomo. C'è una evoluzione. E allora mi pare sintomatico, sono d'accordo con lei quando dice che nel punto di morte, verso la morte, egli ritorna come al principio della sua vita. No, chi va anche oggi alle carceri sopra Assisi non può essere colpito dal luogo dove Francesco viveva e come viveva. Ma questo è appunto l'eremitismo in questo tempo è ancora è come un luogo necessario anche a perfetto. Però mi sembra che tra quell'inizio di Francesco e quella fine, la sua morte, ci sia una storia, uno sviluppo in cui la storia, la predicazione, l'incontro con i lebbrosi, che è l'incontrare appunto sì gli emarginati del mondo, ma chi è vive in fondo della sofferenza del mondo, della storia, questa evoluzione della vita di Francesco, ci sia la storia entra in pieno molto di più degli eremiti di prima. Cioè, io nello scorso si diceva per San Benedetto, Cassiani, che è colui che fonda l'ideologia monastica, sostiene che non c'è perciò intenzione diabolica per il perfetto e di andare a predicare. Dice Apertis Verbis, perché sono passati dei secoli, ma è certo che per Francesco invece fare quella predicazione, il suo girare per l'Umbria, il suo girare delle Marche, il suo andare in Oriente, ero in generale per le città di Firenze, per le città di Firenze, tutto questo mi pare che sia un altro elemento che non sì, sì, è qualificante, che credo e se possiamo convenire in ciò, che si tratta di una vita eremitica sui generis, una vita eremitica prima di tutto non definitiva, ma interrotta, diciamo, con larghi spazi di vita apostolica. Ma abbiamo testimonianza molto chiara che per un po' per tutta la vita, per San Francesco, fu come una tentazione di tornare alla vita eremitica. E questo fu un anelito insito in lui. Per lei avete una cosa, scusi, poi vado per dialogo, ma lei avete una cosa bellissima, secondo me, adesso, quest'ultima frase. Perché mentre i monaci sono tentati di andare nel mondo, Francesco ha la tentazione di andare nella vernitaggio. E c'è un movimento che è appunto un movimento ma inverso. Sì. Bene, mi pare che frattanto è maturata qualche richiesta, anche in grazia del colloquio, l'ha stimolata, vero, dalla platea. Giorgio Terini, forse. Io ero un po' sorpreso di sentire le varie interpretazioni. Sì, poi è molto la richiesta che io voglio fare è questa. Già ai tempi di San Francesco ci sono molte cronache, molte sono anonime, per tuo padre. Cioè ci sono delle difficoltà enormi di interpretazione della vita di San Francesco, contemporanea a San Francesco. Queste difficoltà che nascono anche. Come mai questa figura fondamentalmente limpida, cristallina, porta tante difficoltà di interpretazione. Cioè, tanto che nascono varie vite, varie... Intanto raccogliamo alcune domande. Padre, anche per continuare, se ho letto bene anche Manselli, lui insiste molto su questa, sulla solidarietà. Poi altri, come padre Ottaviano, insiste molto aspetto eremitico, lei ha insistito sul ruolo ecclesiale della non violenza. Quello anche nell'ultimo libro di Manselli, nella biografia di San Francesco, mi pare sull'attività di predicazione non insiste tanto, anche nella loro discussione su quelle predicazioni di ogni giorno, no, che San Francesco ha fatto. Non si insiste. E per questo, in parte, vorrei chiedere, non dipende anche un po' che adesso si fa molto peso di alcune fonti, noi tre compagni, poi anche i testi nostri come Eu Fuimus della Compilatio Assisiensis, no? Mentre altri testi che parlano più della predicazione, San Bonaventura, sono un po' sospetti. Per questo, almeno ho visto che l'integrazione di tutti questi aspetti è molto difficile. Per questo, come se ci sia anche quell'altro aspetto, e se non dipenda anche tanto dalla lettura differente di cui tutta la storia dell'ordine è anche una testimonianza. Si fanno molte letture da questo momento. Professor Moser. Io penso che il rapporto con la tendenza eremitica è una decisione che è rimasta in tutta la vita di Francesco, dal momento in cui nella sua vocazione fu inizialmente indeciso se scegliere la vita contemplativa o la vita attiva. Perciò io penso che nel momento in cui ha preso la decisione della vita attiva, però ha sempre mantenuto questa nostalgia del ritirarsi per combinare strettamente azione e contemplazione. Io penso che è riuscito a realizzare i due elementi in forma abbastanza forte, però l'indecisione per conto mio è rimasta in tutta la vita, perciò queste prolungate quaresime infatti andavano crescendo. Dottor Riccabona. Devo pregare al dottor Leonardi se approfondivo un momento, se possibile, è un punto che mi sembra anche di estrema attualità, del rapporto Francesco autorità religiosa. Francesco? Autorità religiosa, cioè chiesa gerarchica, intanto per capire, in cui ha fatto diverse accenni ripetuti molto interessanti, anche molto estrema sensibilità e diciamo anche produttività. tipicamente francescana, ma per vedere se si può scoprire un criterio che sia valido eventualmente anche oggi per questo rapporto, perché ha detto giustamente che la vocazione fondamentale di Francesco anche se, si è trovata a fare i conti con la autorità ecclesiastica e l'ha riconosciuta in cielo e tuttavia ha mantenuto una totale libertà. Ecco, io guardavo la radice e la fonte e il tipo di rapporto che c'è stato per vedere perché lui si è sentito comunque libero e superiore all'autorità ecclesiastica pur accettandola in Dio. Non vorrei dare già una risposta dicendo che mi pareva chiara la sua citazione che gli veniva direttamente da Dio al punto che dice il Signore, dice questo, io lo dico e con estrema tranquillità e senza nessun problema di fronte alla politica. E tuttavia vuole l'approvazione della regola e tuttavia ha quel rapporto con i sacerdoti per via della loro ordinazione, eccetera. Perché siccome questo è un problema che anche oggi parla di estrema qualità, vorrei vedere se si può approfondire anche un altro aspetto che è implicito dell'assoluta preminenza finale della coscienza, come dice quel testo che aveva richiamato, rispetto anche a un ordine che venisse da un confratello, magari anche in autorità. E questo perché mi pare che il discorso richiama anche il discorso finale del Concilio Vaticano II della Dei Verbum, in cui è chiaro, e per la prima volta forse così chiaro, che anche l'autorità della Chiesa è soggetta alla parola di Dio. Anche il Magistero è sotto la parola di Dio, non sopra la parola di Dio. Ecco, mi pare che coscientemente Francesco avesse questa idea comune, che visto la sua parola, il Vangelo così grossa, è un termine di riferimento assoluto. Dal punto di vista storico e disciplinare è tuttavia di fatto necessario anche la disciplina ecclesiastica. Cosa da lei in una maniera così singolare e tale che forse può essere indicativa anche di come può essere risolta anche oggi. Poi in conclusione, ma lei capisce meglio. Bene. C'è qualche altra domanda? Perché se no ho l'impressione che quando i relatori hanno risposto a queste sollecitazioni noi chiudiamo questa nostra sessione mattutina, però riconvocandoci per il pomeriggio anche a riprendere i discorsi. C'è qualche altra domanda? Allora la parola... Io avrei rivolto al professor Manzelli una domanda di difficoltà. Personalmente, non so, lui è d'accordo di accettare la leggenda dei tre compagni come una fonte di informazione in reazione alla vita prima di Tommaso da Celano, ma non è molto coerente nel rifiutare l'approvazione di questo gruppello, di gruppetto di San Francesco, gli 11 compagni davanti a Innocenzo III, come religio parla di una fraternitas, e invece la tre compagni parla chiarissimamente di una approvazione, non come una fraternità qualsiasi, del resto non vedrei assolutamente il motivo perché San Francesco fosse andato a Roma per l'approvazione semplicemente di una fraternità che il vescovo poteva già dare un'approvazione per, sul piano diocesano per una istituzione religiosa, tanto più per una congregazione, una fraternità, scusate. Quindi questa domanda gli avrei rivolto, l'ho dimenticato nella mia recensione che ho fatto, i due volumi, che del resto sono eccellenti e vanno raccomandati a tutti. Questo volume è, vuol dire il piacere che l'ha pubblicato il nostro istituto storico. Ma la difficoltà di comprendere un uomo così semplice deriva appunto dalla semplicità, perché semplicità effettiva della vita vuol dire profondità della medesima, quindi capirne il nucleo generante è sempre difficile. Un uomo che non è semplice nell'animo ma è complicato mostra la sua complicazione, e noi possiamo capire certamente l'una o l'altra delle sue facce, ma chi è semplice definito con una sola parola, con un solo tratto, questo è estremamente difficile. Quindi c'è una difficoltà nel personaggio. L'altra difficoltà è nelle fonti. Io devo dire che per questa occasione, ma non solo in questi ultimi tempi, vero, con l'avvicinarsi dell'anno francescano, non ho più letto le fonti francescane, e ho cercato, certo con grandi possibilità di criticarlo, di intendere Francesco unicamente dai suoi scritti, dove almeno, essendo sì, certo, ci sarà la mediazione del copista che scriveva, di Frate Leone, di qualcun altro, qualche mediazione possiamo anche immaginarcela, ma sempre una mediazione estremamente ridotta rispetto a quelle che si chiamano le fonti francescane, no, anonime, vero, o nominate, vero, di autore ignoto o ignoto. Quindi, questa operazione di leggere, cercare di capire questo semplicissimo uomo di testa solo attraverso le sue fonti è possibile di critica, ma è quello che ho cercato di fare. E naturalmente, cercando di fare così, uno trova nei suoi scritti solo certi temi e non tutti i temi che poi le fonti franciscane hanno sviluppato. Così, a quanto chiede padre Eckhart, sono un po' incerto a dire: Mansell insiste in qualche modo sulla fraternità, sulla solidarietà, altri insistono sull'eremitismo. Io pare abbia insistito, a quanto dice lei, vero? Su questo aspetto ecclesiale. Non lo so, a me pare che effettivamente Francesco non si possa intendere se non all'interno di quella che è chiamata la Chiesa Gregoriana, altrimenti la sua devozione al clero, la sua devozione alle istituzioni ecclesiastiche, la sua devozione ai vescovi, ai papi, ai preti, l'assoluto rispetto che ha per il mondo ecclesiastico non si potrebbe capire. E noi, forse dopo il Vaticano II, saremo portati a giudicare, almeno dico noi, un certo spirito post-conciliare giudicherebbe certamente negativamente questa assoluta venerazione. Quindi certamente si può vedere in Francesco molte cose. Il nostro problema storico è di vedere ciò che è essenziale nelle varie cose che Francesco ci propone. Io allora direi che la vita attiva, vita contemplativa, però Monsignor Mosè parlava di questa indecisione tra vita contemplativa e vita attiva, io sono colpito da un altro fatto, cioè che in Francesco non ritorni più il problema dialettico tra vita attiva e vita contemplativa, non ritorna più nella sua autocoscienza in quanto appare nei scritti. Questo è un problema tipico del monaco, che sente le due vite come veramente diverse. Per i monaci, per i benedettini, per i grandi spiriti, i grandi santi, eremiti e monaci dei primi secoli, da Sant'Antonio, del IV secolo in poi, come appunto a Bernardo e San Bernardo, per dire solo i più grandi, c'è questo contrasto, questa specie di concepire Marco e Maria, che è la vita attiva e la vita contemplativa, come due cose opposte l'una all'altra. Vedete, nel Vangelo si dice c'è la parte migliore, ma non è che quell'altra fosse peggiore. Quindi c'è questa accentuazione dialettica, ma in Francesco non mi pare che sia coscientemente le due cose come veramente contrastanti, come dialettiche, come in opposizione tra loro. Forse in prima parte. E quando poi chiede il professor Di Favona, certo mi lascia l'imbarazzo, perché qui siamo in mezzo teologi, e lei vuole infilarsi su un sentiero pericolosissimo, dove si possono dire così ogni momento, no? Cioè, il problema è ovviamente difficile, ma mi pare che per alcune cose sia anche abbastanza semplice, cioè il rapporto tra Francesco e l'autorità ecclesiastica. È difficile riportare il problema alla nostra esperienza di oggi, di cristiani o no, poi non è che resta il fatto che è proprio tipico della coscienza cristiana ed è certamente una conquista assolutamente cristiana, l'affermazione che la coscienza è maggiore della legge. Basta leggere San Paolo che la cosa è chiarissima. Chi ha inventato nella storia dell'uomo il primato della coscienza sulla legge? Ma appunto Cristo e il cristianesimo. Questo mi pare sia indiscutibile e il sentiero di fare assolutamente certo. Se è così, il problema è poi vedere come nella storia questo primato della coscienza, della libertà, dell'uomo, della storia. Questo c'è. Come nella storia e nella storia cristiana, la Chiesa in particolare, questo primato si realizzi, si concretizzi. Quello che stupisce in Francesco è di essere stato capace, in un mondo che appunto è tutto cristianizzato, non dobbiamo mai pensare al Medioevo come magari si dice nei manuali di scuola come l'epoca cristiana. Perché questo poi c'è. Allora il cristiano, poveretti, in epoca barbara, mezza barbara, primitiva, ma poi vengono i lumi, soprattutto una bagianata, quello che continua, si continua a leggere. No? Non è così. Il Medioevo è un'epoca ferocemente barbara, in un certo senso, ma anche grandissimamente cristiana. Le cose sono sempre la storia, è un crescere del bene, del male, ovviamente la storia è crescere dell'altra. È un'epoca che certamente poco per volta si imbeve di cose cristiane, no? La domenica non si poteva fare la guerra, no? La domenica la guerra andava sospesa assolutamente, la domenica è un'altra cosa la domenica, no? Poi lunedì si fa. Quindi queste cose che appunto si fanno un po' sorridere, dicono di una mentalità assolutamente diversa. Ora in questa crescita del mondo cristiano, certamente il mondo è cristiano nel Medioevo, le strutture diventano cristiane. Ma cosa afferma Francesco? Afferma, come Cristo ha affermato, l'assoluta supremazia della persona sulle istituzioni. E perché Francesco, lui non dice che è superiore, ma anche nei suoi scritti, quando scrive il Cantico, si capisce che lui è superiore. È superiore perché? Perché la tradizione cristiana, che è pure San Tommaso, per dire un'autorità teologica che era difficile smentire, Tommaso sostiene pacificamente che la Bibbia, la gerarchia e i sacramenti sono un mezzo per un fine, ma è il fine c'è tutto. Chi è nel fine è superiore al mezzo. Questo appunto Tommaso da Aquino pacificamente. Francesco è semplicemente nella res a cui qui i mezzi portano. Francesco è tranquillamente posseduto da Dio e quindi sa di essere nella res. Come può appunto, e qui non sei d'accordo con Manselli, mi piace vedere questa cosa che lui non c'è, come si può capire quel cantico dei cantici, come si può vedere la terra, il fuoco, tutte le creature, la morte come veramente una sorella? Parlare pacificamente così, o si bara con le parole, ma se non si bara con le parole e la poesia e la parola ha dentro la, quello che significa il significato, vuol dire che lui può effettivamente vedere la morte. Come si fa a vedere la morte come una sorella se non si è già vinta la morte? Cioè, se non si è già in possesso di Dio, questa è l'escatologia, no? L'escatologia, si legge nei Vangeli, è già cominciata, io già possiedo il regno di Gesù, no? Quindi, già non ha ancora, come fa bisogno di raccontare già. Se già è così, allora io chiudo perché il tempo passa. Se già è così, allora io so di essere superiore agli strumenti della salvezza. Che sono strumenti, non sono la salvezza, sono gli strumenti per. Questo avviene tanto senza polemica, perché senza polemica? Perché lui è tipicamente, diciamo così, in termini moderni, gandhiani, non violento. Io credo che lui sia veramente non violento. C'era nel Medioevo questa eredità pagana del potere politico come ciò che veramente conta e della violenza come l'arma per risolvere l'ultima questione. C'è il duello, ovviamente il duello tra due come sufficiente per determinare la questione. E la Chiesa stessa, sapete, i santi ammettono la prova del fuoco, cosa più violenta di quella. No? Ecco, in questo mondo, tutto per un certo verso cristiano, ma insieme un mondo che cresce da un certo stato a un certo stato migliore, Francesco è l'uomo della violenza, che applica a se stesso. Rifiuti di entrare in contatto con l'istituto ecclesiastico, quando l'istituto ecclesiastico riduce il suo messaggio e lo costringe nella sua istituzione. Cari amici, il colloquio è appena iniziato. iniziato, questa è la mia sensazione, siamo tutti invitati oggi pomeriggio alle 3 a riprenderlo. Vorrei far presente che l'intervento di Padre Smucchi, anche se dal titolo sembra quasi settoriale, investe in pieno la personalità di Francesco e quel suo modo di solidarietà che è tanto caratteristico, per cui ecco, vorrei invitare tutti gli uomini di buona volontà a rimanere con noi anche il pomeriggio dalle 15 qui, in questa medesima sala. Grazie.